illudendomi che non ci fosse bisogno di altro per vivere. Era la felicità che avevo sempre cercato. L'avevo trovata e scoperto che cosa fosse. La felicità che mi era sempre stata negata. Avevo il diritto di viverla, quella felicità. Non me l'avete concesso. E allora è stato peggio per me. Peggio per voi. Peggio per tutti. Dovrei rimpiangere ciò che ho fatto. Forse. Ma non ho rimorsi. Rimpianti sì. Ma in ogni caso, nessun rimorso.